Tutto questo. nuove hanno anche la frequenza diversa, perché prima quella che era destinata, adesso che è stata destinata ai telefonini, non ci serve più, quindi meglio che non abbia la frequenza, così non prende disturbi, come dici tu. No, è anche protetta proprio per quelli nuovi, per i telefonini nuovi, che quelli dice che disturbano. E l'antenna è fatta apposta per non prendere quella banda lì. Sì, perché ormai quella banda non ce l'abbiamo più. Prima era destinata alla televisione, ma ormai è stata destinata a 5G e quindi a noi non ci serve più. Prendo l'antenna, quindi ce l'hai presa da poco, sicuramente c'è già, già filtrata, amico, quella banda non ce l'ha più. Sì, l'ho presa da poco. Quando ho piazzato l'antenna, ho messo anche l'antenna TV nuova sotto il palo dell'antenna, l'ho messa. C'ho 4 metri di palo, sai quanto si vede adesso? Sia da Via Sorso che dal ponte. Se capita già il loro sguardo. No, perché non sono passato? No, ma era già buio, forse non si vedeva. Non ci ho pensato neanche a guardare la dritta. Se capita già ad uno sguardo. Bene, come città, bella dritta? Di lusso, di lusso. Che a te può piacere. Sono 4 metri di palo. Beh, dov'è che hai notato differenza? Come? Hai fatto qualche collegamento tipo al Ghero, dopo così, dove prima arrivavamo, cioè io neanche ci arrivo al Ghero. Solo Franco Di Sorso mi ha risposto, l'ho piazzato da poco, l'ho piazzata. Comunque ho parlato con le Canarie di lusso. E da Franco quanto hai guadagnato, quanto vuoi disegnare? Ho guadagnato sì da Franco, prima gli arrivavo Santiago 7 mi sembra, adesso gli arrivo bene. Vuol dire molto. Dai, sono contento, dai, che almeno hai risolto un problema, dai. Ma ha risolto una volta per tutte, però, cai pittina. Io ne l'avevo scesa proprio l'antenna, perché era pericolosa così, allora ne ha giù varata. E ce l'aveva attaccata al muro praticamente, ma non sentivo a nessuno. Tu pensa, non sentivo a Carlo, quello che abita a Luna e Sole, non lo sentivo. Addirittura, cioè come ce l'ho io nella finestra, ce l'avevi? Ce l'avevo proprio attaccata al muro. Come ce l'ho io nella finestra, come attaccata al ferro per tendere? Come tra che stavo parlando la 50? Dico, nelle mie condizioni, però io lo sento a Carlo, lo sento, qui arriva forte Carlo. Io ce l'ho davanti alla finestra, dai, e la punta arriva alla grondaia. Ma ce l'avevo attaccata al muro troppo. La mia sarà una quarantina di centimetri, 40-50 dal muro, dai. No, la mia era troppo attaccata e poi era tutta dentro il vicolo l'antenna, quindi non prendeva un tubo. Adesso già è bella libera, ne arriva a fondo scala. Sì, anche lui c'è una bella posizione rispetto a noi, è 100 metri più in alto al minimo. Ha voglia, cazzo. È di lusso, c'è una posizione, se no Franco pure se l'ha cambiata l'antenna, si è messo la Game Master anche lui. Cazzo, tu pensa che non riesco a attenuarlo a Franco California. E lui che zona è? E sopra al monte, Monte Rosello su a tutti, zona via Alessandro Manzoni, tutto libero, ma una zona invidiabile. E prima cosa aveva? Che antenna aveva prima? È una di quelle antenne con i radiali corti, adesso ha messo la Game Master ed esce di brutto, veramente bene esce. Ah, ho capito, quell'antenna che non mi viene il nome, che costa poco, dai, però arrivava forte anche con quell'antenna, non mi ricordo il nome adesso, però già ho capito, ero intenzionato a prenderla anch'io da lì, perché ho paura che se metto questa canna da pesca sul tetto magari altri un colpo di vento me la fa a nodo morto. Oh, ne ha preso sbattulate questa, però flette non gli fa nulla il vento. A Franco lo stesso, a Gianfranco, ne ha preso sbattulate, gli ha piegato il tubo, il vento, però all'antenna non gli ha fatto nulla. una pesca, non lo so quanto possa reggere, buh. Una volta che apri conviene mettere un'antenna a fila, dai, in modo che sei sicuro che non ci deve risalire per un po'. Io ho capito, ma io ho l'originale e flette un bel, quindi non dovrebbe creare problemi, là, diciamo così. Ah sì, dai, va bene. Hai risolto un bel problema. L'altro problema è che non fai più nessuno, così. Non sta entrando più nessuno, perché ancora la gente è in giro e tutta. Già dovrebbero rientrare. Ma anche io ieri oggi ero al mare, si sta bene, adesso c'è poca gente, l'acqua è bella, pulita, ancora è calda. Una pescatina, stamattina era pieno di canne Alghero, io però sono entrato a farmi un paio di pulpi. Io a mare non ci sono andato nulla quest'estate. Andiamo a pescare le orate che c'erano scappate dal vivaio, sei andato? No, negativo. Cazzo, mi hanno preso un bel, io non ci sono andato nemmeno io, anzi, una volta siamo andati in quel periodo, però siamo andati a mare di dentro, lì a Sentino, a fare un po' di sale, che c'era un po' di mare, però orate neanche l'ombra, perché mi ha detto che sono andato verso il sorso, capito? E allora, Franco è andato e ne ha preso 4, no, 5 ne ha preso, una grande e 4 piccole. Ho visto gente, anche donne lì, 50, cioè in terra era pieno di orate, non aveva tempo neanche di sistemarsi, quindi le buttavo in mezzo alla sabbia, ma era tutto orate. E io lo credo, quelle che sono scappate dall'allevamento. Aspetta una bassa, un attimo. Sono una trainer, attore, oltre che cantante, ballerina, eccetera, comunque sempre fatto un lavoro in cui davanti a tutti, comunque da rimosso, cerca di distruggere. Sì, Natalia. Sì, sono qua, già non scappo. Ho fatto un giro di telefonate perché è roba di condominio, che c'è una perdita, quindi domani viene l'idraulico a vedere. Doveva buttare giù qualche cosa dalla colonna montante, non da noi, dall'altro condominio che c'è qui a fianco, dai. Ne ho capito. Mia gasotto, mamma mia. Meno male che non è da noi, perché abbiamo due colonne separate, no? Tre appartamenti, ne hanno una che va sui giardini, l'altra invece, gli altri tre ce l'hanno lungo la strada. Però lavorano da dentro casa, apriranno da dentro casa. Speriamo bene. A te c'è lo zocco, questa cosa quando tocchi la fogna ti sparano prete allucinanti. Infatti. Gesù. Vabbè, pagheremo anche questo. Quindi mi stai dicendo, amico tuo è andato e ne ha preso, è orato, una grande e mette un paio piccole. Ehi, 4 piccole e una grande ne ha preso, ma aveva mandato la fotografia anche. Vabbè, io anche detto mio collega, andiamo, anzi ex collega, va in pensione, andiamo lì a prendere orate. No, no, di giorno io non, perché ancora la... Io volevo andare di giorno, vai, è pericoloso perché ti sequestrano tutto, attrezzatura, se ti beccano in spiaggia pescando fuori orario, dai. Lo so, quando è che scade la situazione, puoi andare a lui. Non lo so, io mi trovo a Alghero, stamattina era pieno di cane, anche di giorno. Ehi, quando non ci sono i bagnanti puoi andare, perché non vogliono quando ci sono i bagnanti, mi capito? Infatti c'era mia moglie, voleva passeggiare lungo il mare, non si poteva perché ogni tanto c'era una canna. Però ripeto, non so se adesso c'è da ottobre, non lo so, perché ancora è pieno di gente. E allora non si può. Ma un raffreddore. Sì, corrente c'è, cioè, c'erano vapori, ma c'è aria calda ancora. E boh, io stavo pitturando qua, ho quasi finito. È beato te, non mi piace più a me, è una cosa che mi dà fastidio il pitturare. Non tanto, se non ci sono mobili va bene, ma spostare tutto, mamma mia, non mi piace. Lo so, è un macello, ma io avevo anche il mulo messo male, ho rifatto tutto a nuovo qua. Anche in Monaco? E allora ha detto Buccio Mari, 20 anni che c'ha casa fino di più. Sì, anche questa già, anni già ne ha bene, però già si rimantiene bene, dai. Capo, ma questo era messo male, ne farà un pezzo di muro in tre, mai neanche. penso che abbiano qualche anno in più. Credo, Sono fatte in pietra, come sono fatte? In tuffo? Tuffo. Cazzo. Tutta buccia mari era. E allora abbiamo pitturato già in cucina qua. Solo il bagno mi devo fare. Capito? Però a nuovo là. Mi ho fatto l'impianto del contattore nuovo. Ho buttato roba di biligrussi a vedere. Una volta che li entri conviene mettere una bella linea, una bella colonna montante nuova. Anche qua quando ho preso casa qua io ho tolto tutto, ho tolto i fili, c'erano quei fili rigidi ancora, quelli grossi ma erano rigidi, e ho fatto sfilando i vecchi e infilando i nuovi. E infatti io l'ho rifatto qua perché era tutto un macello. Perché le case sono vecchiette. Ho fatto linee separate, prese, interruttori, insomma già tutto a norma, salvavita, non c'era niente prima qua, c'erano ancora i fusibili quelli in ceramica, veramente? Sì, a voi se me li ricordo. A me mi era saltato anche il salvavita, l'ho messo nuovo. Addirittura. Non mi ricordo se li ho conservati, perché è roba storica, sono dei cimeli. Molti li cercano addirittura per fare la collezione o anche per fare le abitazioni, per tenerli, come si dice, in stile antico, utilizzano queste cose qua. Ho visto una casa fatta in un paesetto lì nel Nuorese, tutta fatta in stile antico, interruttori, tutto in ceramica. Cazzo. No, io mi era saltato e non armava più il, come si chiama, il differenziale, l'ho messo nuovo. È bruciato, quello si è bruciato, capita anche quello. E vabbè, dai, guardo un po' di sport. Ci sentiamo allora, Natali, stammi bene. Ciao Fra, grazie per essere entrato, così ci abbiamo fatto le quattro chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime, cerca di entrare di più, così almeno parliamo, cara. Ci sentiamo alle prossime, dai. Capo, anch'io non ne ho molto tempo, tra i miei genitori, quelli della signora, siamo da una parte all'altra, a volte le badanti ti lasciano a culo a terra, quindi di scendere qua da una parte all'altra, poi poco tempo avanti, Natali, faremo il possibile, dai, stammi bene, un abbraccio, ciao. Ciao, alle prossime.